Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, da una casa di schiavitù. Non avrai altri dei davanti a me. Non ti farai scultura e alcuna immagine né di quello che è su in cielo, né di quello che è quaggiù sulla terra, né di quello che è in acqua sottoterra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri sui figli fino alla terza e quarta generazione per quelli che mi odiano, ma che fa grazia a migliaia per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai inutilmente il nome del Signore tuo Dio, perché egli non lascia impunito chi pronuncia il suo nome inutilmente. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo servo e la tua serva, il tuo bestiame, il forestiero che sta dentro alle tue porte, perché in 6 giorni il Signore fece il cielo, la terra, il mare e tutto quello che è in essi. Ma il 7° giorno si riposò. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Onora tuo padre e tua madre, perché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non farai adulterio, non ruberai, non deporrai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, il suo servo, la sua serva, il suo bue, il suo asino e tutto quello che è del tuo prossimo. Tutto il popolo vedeva i tuoni, i lampi, il suono di tromba e il monte fumante. Il popolo ebbe paura e si tenne a distanza. Dissero a Mosè: «Parla tu con noi e ti ascolteremo, ma non ci parli Dio per non morire». Mosè disse al popolo: «Non temete, perché è per provarvi che Dio è venuto, e perché il suo timore vi sia sempre presente e non pecchiate». Il popolo si tenne lontano e Mosè si avvicinò alla nuvola oscura dove c'era Dio. Il Signore disse a Mosè: «Così dirai ai figli di Israele: voi avete visto che ho parlato con voi dal cielo. Non farete accanto a me dei d'argento e dei d'oro, non ne farete per voi. Farai per me un altare di terra e vi sacrificherai sopra i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di comunione, il tuo gregge e i tuoi armenti. In ogni luogo in cui ricorderò il mio nome, verrò da te e ti benedirò. Se farai per me un altare di pietra, Non lo costruirai di pietra tagliata, perché colpendolo con la tua lama lo profaneresti. E non salirai al mio altare per mezzo di gradini, perché là non si mostri la tua nudità.